Grazie. Giro il microfono a Aldo Giannulli che per quanto riguarda relazioni tra servizi, gruppi, autonomi, è uno che ne sa. Sono un vecchio collega qui, perché non è questo. Allora, a me e a Piero Colatrico spetta il compito di fare alcune domande telegrafiche all'autore. Devo fare però prima una premessa, che sono un vecchio amico di Peppino De Lutis, siamo stati insieme anni in commissione stragi e poi in commissione di Rolico, non so lei, ci vanno bene. Scuserete se talvolta magari involontariamente avere un linguaggio un po' criptico, forse dobbiamo evitare. Cercheremo di evitare. Allora, guardate, nel caso Moro sostanzialmente ci sono due partiti che dividono il mondo, i pubblicisti che scrivono sulle parole. C'è il partito della cosiddetta chiarezza, quello convinto che sia tutto chiaro, che non ci sia niente da studiare, da sospettare, e che essenzialmente è nato da due correnti: la corrente dell'ex presidente Cossiga, che rappresenta la voce ufficiale degli apparati investigativi che in quel periodo furono impegnati, e la corrente del manifesto che fa riferimento a Rossana Rossanda, che pure sia pure da sponda diversa e opposta a quella di Cossiga, confluisce nel dire Moro è stato rapito da un gruppo di estrema sinistra, le Brigate Rosse, che pensavano di fare la rivoluzione. Poi il rapimento è andato in quella maniera, al massimo, dice la corrente della Rossanda, c'è da chiedersi perché di tanta inerzia da parte dello Stato, però poi alla fine Moro è stato ucciso dalle Brigate Rosse, così come ci hanno detto, è stato via Montalcini, eccetera, eccetera, quindi non c'è nulla da dire, è tutto chiaro. C'è poi il partito B, il partito dell'ombra, il partito dei sospettosi, che ha il suo riferimento, i suoi riferimenti massimi in Sergio Flaminio e in Peppino De Lutis, che invece dicono non è chiaro un accidente, non c'è una sola carcosa che regga da un punto di vista dell'analisi logica, e sostanzialmente l'omicidio Moro è cosa molto diversa da quello che sembra, appunto è il golpe di Milani orchestrato per impedire gli sviluppi di politica interna e compromesso storico. Io non fingerò alcuna neutralità, dico onestamente, io appartengo al partito B, a quello dei sospettosi, di cui però rappresento la corrente dei dubbiosi. Ecco, cioè, la corrente del dubbio. E mi spiego meglio. Il dubbio più grosso, io sono pienamente convinto che Mario Moretti e gran parte dei dirigenti delle Brigate Rosse siano degli emeriti bugiardi, confessatamente tali, perché non c'è una sola cosa sulla quale non si siano contraddetti o non siano stati smentiti quei dei fatti, o sulla quale riescano a fornire una versione minimamente attendibile dal punto di vista logico. Quindi sul fatto che il rapimento Moro non è andato come ci viene raccontato, pienamente. Quello che invece mi lascia molto dubbioso, ecco il mio essere dubbioso all'interno del partito dei sospettosi, è: ma siamo sicuri che Moro è stato ammazzato per la questione del compromesso storico? E ci sono tre cose che mi lasciano molto scettico. Primo, se l'obiettivo era quello di ammazzare Moro e impedire il compromesso storico, non c'era bisogno di una chicca, bastava ammazzarlo a Gaetani e non tirarsela da solo. E soprattutto non c'era bisogno poi di interrogarlo, di far uscire il memoriale, e poi invece di non fare più uscire niente del memoriale, ecco, tutte cose che quadrano male con questa ipotesi. Seconda cosa, ma se Moro, se uccidere Moro era strettamente funzionale a impedire il compromesso storico, logica avrebbe voluto che da un lato sostenitori del compromesso storico, cioè Sinistra Democristiana e Partito Comunista, fossero stati i sostenitori della trattativa per liberare Moro, e gli oppositori del compromesso storico, socialisti e destra democristiana, fossero invece gli avversari, quelli interessati a che Moro non ci si vivono. E invece è successo esattamente il contrario. comunisti della sinistra democristiana intransigentemente contro ogni trattativa, questo fenomeno è quello che traspare dai comunicati ufficiali, dai documenti del tempo, e socialisti e destra democristiana invece quelli aperturisti. È una contraddizione che riesce difficile capire. In terzo luogo, nel memoriale di Moro compaiono alcune pagine nelle quali Moro sembra, ma Moro sia stato detto, ti liberiamo, abbiamo deciso di liberarti. E Moro dice, alla fine di questo periodo che è stato molto duro ma educativo, debbo il dono della vita e del ritorno alla libertà alla generosità delle Brigate Rosse. E sembra una serie di cose, attaccando pesantemente il Partito Comunista. C'è onorevole Berlinguer, bel ringraziamento ho avuto per la mia opera in favore della maggioranza di unità nazionale, per poco non stava per finire con l'omicidio di quello che come me l'ha promossa. Un attacco durissimo ad Andreotti, presidente del Consiglio del Tempo, la decisione di dimettersi dalla Democrazia Cristiana, non si capisce bene se voglia ancora far politica o meno, parla di iscrizione al gruppo misto, però non si sa se può ripresentarsi o meno. Però in ogni caso, certo è una cosa, l'Aldo Moro che scrive quelle righe non è più funzionale al compromesso storico in nessun modo. Non lo è, perché se non stai nella Democrazia Cristiana che azione puoi svolgere più a favore del compromesso storico? Non lo è perché attacca frontalmente il Partito Comunista e invece rivolge aperti sorrisi al Partito Socialista. Non lo è perché soprattutto non si sa se intende continuare a fare politica o no, e certamente non è più proponibile come Presidente della Repubblica e non c'è una direzione. E allora perché ucciderlo? Se l'obiettivo è quello di impedire il compromesso storico, ma in quel momento la vita di Moro e il compromesso storico ormai stanno andando in due direzioni diverse, il binario si è bifurcato. Perché era ammazzato? Io ho ipotesi diverse su come sia andate sul perché, ma intanto vorrei centrare una riflessione su questo. Spesso accade che lo storico sia ingannato, lo storico scrive sempre dopo, come dice Hegel, la notte di Minerva si alza sul faro del tramonto e ha cose fatte. Questo spesso induce un errore di ottica, a pensare che siccome il punto di arrivo dei fatti, il punto di caduta è stato questo, sin dall'inizio gli attori volessero arrivare là, talvolta invece ci sono arrivati contro la loro volontà. Quindi sì, è vero che c'è la crisi del compromesso storico, però io sarei molto attento a far coincidere l'esito finale con l'intenzione degli attori al primo momento. Questo. E quindi la prima domanda che rivolgo a Pettino è: siamo proprio sicuri che sia questa la spiegazione? Seconda domanda è questa. Le IR avevano detto racconteremo tutto del processo scolare. I primi comunicati dicono che Moro sta collaborando e al prigioniero non difettano né informazioni né memoria, quindi lasciando capire che chissà che cosa gli sta dicendo. Dopodiché ribadiscono per l'ennesima volta l'idea che tutto sarà presto chiaro, al movimento daremo tutto. Nel comunicato con numero 7 però con una bizzarria, per cui non useremo più i giornali borghesi che stravolgono le notizie, faremo girare i documenti all'interno del movimento, si capisce come, volantinando, con passaparola, non si capisce bene come. Dopodiché non fanno girare niente e sparisce tutto. Non solo, ma c'è una cosa proprio paradossale. Quando viene scoperto il covo di Montereuolo e si becca una parte del memoriale, il generale della Chiesa giura che sia l'intero memoriale, e così anche il governo Andreotti. Si scoprirà dopo che, sia pure nel misterioso pannello del termosifone, cioè c'era un altro pezzo di memoriale, ma questo si scoprirà 12 anni dopo. Ora, ammesso in un concesso che veramente le Brigate Rosse non avessero capito la portata delle dichiarazioni di Moro, se in quel momento le Brigate Rosse avessero detto no, no, ma che è tutto il memoriale? C'è un altro pezzo, ve lo diamo noi, è questo. Questo avrebbe significato una, anche se realmente la parte trovata fosse stata solo quella, si sarebbe stato un caporetto del governo irreparabile, una smentita irreparabile. Invece le Brigate Rosse sembrano tenere fede a un patto per il quale non mettono in imbarazzo il governo. Non solo, ma la cosa interessante è che ancora dopo le Brigate Rosse continuano a dire no, non c'è nient'altro da scoprire, memoriale tutto quello, quando invece da lontano delle pagine si capisce chiaramente che sono invii ad una terza parte che non è stata ancora trovata. E allora la domanda che rivolgo a Peppino, secondo me, è questo: ma chiediamoci perché le Brigate Rosse osservano ancora la consegna del silenzio? Perché c'è questa? Cioè, guardate, c'è una frase molto interessante di Renato Curcio, quando uccidono lo Stanno, e lui viene intervistato e in lacrime ricorda, perché è molto amico di lo Stanno, a un certo punto dice: è perché ci sono una serie di storie che sono andate in un certo modo, lui cita Piazza Fontana, l'omicidio Calabrese, per le quali non si può dire come è andata, perché c'è una sorta di complicità fra noi e i poteri dello Stato, per cui né noi né i poteri dello Stato possiamo più dire come è andata. E una cosa a cui io vorrei molti chiarimenti da Renato Curcio, capire perché c'è questa complicità fra quelli che devono fare la rivoluzione e quelli che dalla rivoluzione devono essere rovesciati, e che poi hanno messo in galera quelli che devono fare la rivoluzione. Non è esattamente il modo migliore di essere complici questo. E ora perché? Che cosa è successo in mezzo? E qui torno al punto: perché le Brigate Rosse ancora oggi tacciono? È solo un problema di minaccia di morte? Bah, a distanza di 30 anni, e poi tutto sommato uno che decide di fare la lotta armata, di essere accoppato, non è per conto, che guerriero è molto serio. Corrotti da denaro, anche questa non è molto credibile. Erano provocatori dal vizio, tutti. Io lo credo con difficoltà persino di Moretti, che fosse dal vizio un provocatore. Ma mettendo pure che Moretti lo fosse, è possibile che non ce n'era uno che ci crede veramente che rompa oggi il gioco? E allora non è che è successo che c'è stata un'operazione di guerra psicologica per la quale le Brigate Rosse sono state irretite in un gioco e ci sono cascate perché, convinti di essere i più furbi, convinti di essere i cavalieri, hanno finito di diventare i cavalli, e quindi alla fine oggi sono ricattati, non possono parlare, e probabilmente quello che c'è stato è stata un'operazione di guerra psicologica, non tanto l'opera di qualche infiltrato che pure ci sarà stato, ma qualcosa che più complessivamente ha creato quella sorta di complicità che si parla. Ultima domanda: c'è ancora qualcuno oggi che ha interesse, non solo fra le Brigate Rosse, ma da parte dello Stato, a dire che è tutto chiaro, non c'è niente da scoprire? Vengo ancora più al mento. Come mai l'ex presidente Cossiga reagisce molto nervosamente, loquacemente, ogni qualvolta si citi il nome di Pieci, o Picelli, dipende da come lo pronunciate, che è il consulente americano inviato dalla CIA, il quale recentemente dice: ma io vengo con un'esperienza molto interessante, perché vedete, fu una missione coronata da successo. Come coronare il successo? Un amore al morto, sì, ma la missione non era salvare il mondo, era impedire il crollo del sistema politico italiano, e ci sono riusciti. E qui c'è una domanda: ma perché il sistema politico italiano doveva crollare? Forse per quello che Moro stava dicendo? E qui insorge così che dice: no, Moro non poteva dire niente perché non sapeva niente, Moro non era una conoscenza segreta di Stato. Un momento. Uno che è stato 5 volte presidente del Consiglio, ministro degli esteri, ministro di grazia e giustizia, capo corrente di una corrente alla quale apparteneva il ministro della difesa, segretario della Democrazia Cristiana, se non le sapeva lui i segreti di Stato, chi li sapeva? Peggio ancora, cioè veramente c'è da credere che c'è una struttura statale che conosce i segreti dello Stato, che esclude uno che è stato 5 volte presidente del Consiglio. Peggio la torta del buco, mi sembra, una cosa più terrorizzante questa idea. E allora, perché l'onorevole, così il senatore Cossiga, è ancora così nervoso oggi. Io non dubbio, fu complice o fu ingannato in quella storia? Gli fu detto che Moro sarebbe stato liberato e perché dopo non lo fu? Queste sono le domande, forse un po' troppo spesse, che rivolgo a Peppino. Facciamo così in modo da lasciarle poi tutto alla fine e ad adiuvarlo, sì, perché hai già detto abbastanza. Troppo. No, la è molto interessante, solo che la domanda, secondo me, mi permetto di contraddirti su un punto, non è perché è stato dato l'ordine, ma la vera domanda ancora è chi ha dato l'ordine. Perché ragionando in termini così generici, proprio da sentivo prima aperto le diarie, anch'io sono abituato a leggere le carte per mestiere e a vedere magari dove c'è qualche dissonanza che ti colpisce più delle altre. Il problema non è tanto perché Moro viene ucciso, perché li detti prima tu, potrebbe anche se tu sei contro la linea del compromesso storico, no, e anch'io con te voglio dire ho dei seri dubbi che il vero motivo sia quello, e ci sono varie teorie e varie ipotesi, però al di là del perché, una cosa importante è ancora il chi. E mi infatti allineo alle tue domande, perché tutte le parti finali dell'omicidio Moro noi non le conosciamo, però ci sono state dette varie situazioni e varie cose. E quello che tu prima dicevi nella domanda al professor De Luzzi è tutto sommato, ma come mai i brigatisti non parlano? Ora io a te, ma quando ho chiuso il libro di De Luzzi, ho detto finalmente un libro che chiudi e dici porca miseria cosa ho letto, cioè perché è un libro che ti fa un effetto di preoccupazione nel capire le cose, ma da te che sei uno storico non posso accettare, se no come provocazione, il fatto che tu dai a dei servitori dello Stato e a delle Brigate Rosse, a volte a figure che sono l'uno e l'altro probabilmente, cioè dai un valore quasi sacrale o sacrificale alla loro vita. E qui secondo me ti sbagli profondamente, perché chi ha conosciuto da vicino la morte, chi ha sparato, chi è stato sparato, eccetera, una volta che ha deciso di vivere, non c'è nulla che gli farà cambiare idea. Il fatto di vivere, non puoi pretendere da buoni soldi, una volta che hai deciso di vivere, che buoni soldi ti racconta dove era in Via Fani, cosa ha fatto in Via Fani. Una volta che Azzolini entra in un gruppo cattolico, non ti puoi chiedere: Azzolini, pentiti in nome del Dio in cui credi e dici davvero quello che è successo, perché una volta che tu hai scelto la vita, è difficile che ritorni alla cultura di morte, soprattutto della tua morte. Perché se queste persone hanno ucciso Moro nel 78 e se nel corso degli anni abbiamo visto morire delle altre persone, chi si mette di traverso su questo treno, una cosa è sicuro: rischia di morire. Allora perché deve farlo? Questa secondo me è la domanda. Perché deve farlo? In nome di quale Italia, quale Dio, quale credo, quale ideologia, quale apparato dello Stato o quale servizio segreto? In nome di chi uno deve rischiare oggi? Ed ecco perché questa cosa, secondo me, dico purtroppo amaramente, ma è la domanda che chiedo a De Luzzi, ma è possibile che qualcuno parlerà? Secondo me no, perché se il tempo c'è passato un tempo sufficientemente lungo per chi, per cui chi aveva un sussulto di coscienza, di religiosità o di fede, di quello che voleva, il tempo è lungo per poter dire come stanno le cose. È sicuramente una memoria odialistica, un memoriale, un Renato Curcio che ha lasciato a un notario un testamento e che dopo la sua morte ci racconta la sua Roma. Sarà comunque una cosa parziale, perché noi a queste persone vorremmo fare domande e non avere ancora una volta delle verità precostituite. E perciò io l'unica domanda farò a De Luzzi, che è questa, cioè noi giornalisti, anche se sono di una generazione successiva mi ha sempre colpito il fatto che si dicesse le sedicenti Brigate Rosse. Ora, è chiaro che le Brigate Rosse non erano sedicenti, c'era la lotta armata, c'era tutto quello di cui ha parlato Nando Dalla Chiesa, però io credo davvero che forse a livello molto alto forse bisognerebbe ripristinare il termine sedicenti Brigate Rosse, oppure no? Questa è la domanda. C'è un microfono, serve? No, un secondo solo, ovviamente prima di attendere le risposte di De Lucis, chiunque voglia intervenire per domande, qualsiasi cosa, ovviamente non esitate, perché siamo qui apposta a tutti i relatori, per cui eventualmente magari vediamo se ce n'è qualcuna prima, così poi eccola. No, tutte a te, quindi... ah, vabbè, allora... no, perché sennò gliela giro, hai capito? La lettera di Aldo Moro a Benigno Zaccagnini, come si colloca al termine di tutto il discorso della probabile morte? Perché io avevo letto Sergio Zavoli che diceva che, insomma, l'ultima lettera di Moro Zaccagnini in un certo senso critica l'atteggiamento di Cini e dice, mi state lasciando morire. Allora, come si colloca questa lettera nella eventuale morte, decisione o meno di morte di Moro? Seguiamo, se no abbiamo troppe domande. Penso anche perché se no non ci ricordiamo quello che hanno detto le ultime domande, se devo parlare. Allora, anzitutto devo dire una cosa, prima di parlare e rispondere. Sono stato felicissimo, ma davvero felice, che il generale Dalla Chiesa abbia detto a Nando, in epoca così lontana, che al suo avviso il centro, la cabina di regia, il punto di importante da scoprire è Parigi. Era questa sedicente scuola di lingue, e qui la parola sedicente la confermo, non per le Brigate Rosse, che allora... questa è la parola sedicente per le Brigate Rosse, era una cosa anteriore al 74-75, c'era ancora all'inizio, sì, dalla sinistra, dal Partito Comunista venne questa parola, forse tentarono di separare se stessi, le loro frange estremiste da questo movimento. E noi siamo sicuramente tutti convinti che il movimento delle Brigate Rosse, giustamente Nando ne ha parlato in questo senso, è un movimento nato dalla sinistra estremista, di cui noi possiamo non condividere, non condividiamo le scelte, e non condividiamo nemmeno la illusione, cioè loro quando fecero questa scelta, addirittura nel 69, loro dicono che fu sull'onda di Piazza Fontana, questo stato assassino, eccetera, diamo atto della loro perfetta buona volontà, però poi dobbiamo dire che era abbastanza facile ritenere che un movimento estremista anzi successivamente terrorista, in un'Europa, non eravamo ancora integrati nell'Europa Unita, ma comunque in un paese del primo mondo, anche se adesso siamo gli ultimi, ma siamo sempre gli ultimi del primo mondo, era una follia. Quindi chi di loro, e la stragrande maggioranza, era in buona fede, ha sbagliato in buona fede, ma ha sbagliato. Non era pensabile né una rivoluzione né un aiuto alla sinistra più avanzata. Oh, ecco, io però voglio tornare a questo che mi pare un punto estremamente importante. Io sono convinto, fermamente convinto, e nel libro ho fatto un capitolo dedicato all'Iperion, però vi dico, non per fare pubblicità a un altro libro, che sta per uscire un altro libro a più mani, nel quale io torno a parlare dell'Iperion, perché sono sempre più convinto che quella è la cabina di regia, quello è il centro dei veri vertici del Rios. E poi ne parliamo un attimo, adesso rispondo un po' alle domande, ma ecco questa conferma che mi viene dal generale, che evidentemente qualche informazione giustamente la doveva avere, mi ha definitivamente convinto di questo fatto. Ma vi dico, adesso ve ne parlo e vi spiego anche alcune cose che non leggete in questo libro, che sono in quest'altro libro che uscirà a breve con la Caos, si chiama il sequestro, non me lo ricordo, vi confesso. Comunque comincia con la parola il sequestro. E poi ci sono ancora cose, perché ormai ho preso questo filone e non lo abbandono più, e ci sono ancora cose che in parte vi dico adesso. Allora, però torniamo alle domande di Giannulli. Se l'obiettivo era quello di uccidere Moro, potevano ucciderlo a Via Fani. E no, Aldo. L'operazione è molto più raffinata, e perciò penso che non sia un'operazione delle Brigate Rosse o totalmente delle Brigate Rosse, perché quella operazione aveva come punto centrale proprio la destabilizzazione del paese, e la destabilizzazione del paese si è ottenuta con quella. Voi siete giovani, non avete vissuto quei 55 giorni, ma noi meno giovani ce lo ricordiamo bene, con una raffinatissima gestione alternata delle lettere di Moro e dei comunicati delle Brigate Rosse, intervallati da giorni di silenzio che ormai prigionieri, tutti eravamo BR dipendenti, sì, una specie di sindrome di Stoccolma assurda, sì, strana. Cioè noi da fuori eravamo stati irretiti in una logica di comunicazione, dipendevamo dalle comunicazioni che arrivavano da quel luogo completamente oscuro per noi. È stato ricordato che Pier Montalcini entra in Lizza nell'82, ma poi parliamo anche di questo. A mio avviso Moro è stato almeno in due posti, se non in tre. E quindi in questo senso rispondo anche alla inconoscibilità delle pieghe. Io lo riferisco solo a quel periodo tra il 75 e l'inizio del 78, nel senso che fosse il leader Moretti, il vero leader dopo gli arresti. Beh, questo non lo sapemmo, non lo capimmo subito, almeno io non me ne resi conto. Si diceva, questo nome era uscito, naturalmente era uscito nel 72 per il caso del covo di via qui a Milano, però ci fu un periodo in cui loro furono molto parchi di comunicazioni su se stessi, e quello fu un periodo invece piuttosto denso di decisioni, E Maletti ci disse, ci ha detto poi, prima in un articolo, in un'intervista, e poi ha confermato alla commissione stragi a Johannesburg, dove ho avuto anche l'onore di andare come consulente, erano 8 parlamentari più o meno, e ci ha raccontato con più particolari un dato che io stesso avevo chiesto che venisse chiesto. Lui ci ha confermato che nel 75 aveva scritto una lettera al ministro dell'interno, che era Gui, dicendo: attenzione, qui c'è un silenzio delle Brigate Rosse, ma è un silenzio pericoloso, non crediate di aver estirpato le Brigate Rosse, anzi si apprestano, sono un gruppo diverso per censo e per cultura. E qui probabilmente Maletti si riferiva all'autonomia, perché se no diversi per censo e per cultura è un po' eccessivo per Maletti, che si appresta ad uccidere e a sparare alle gambe, quindi una conoscenza abbastanza, anzi molto, molto alta del fenomeno che era in corso in quel 75. Nel 75 non ci sono eventi gravi, le Brigate Rosse cominceranno nel 76 con Coco e La Scorta, la prima uccisione durissima, eravamo in campagna elettorale nel 76, quella di che poi vedete una forte avanzata al Partito Comunista. Ecco, quindi Maletti poi ci ha aggiunto a voce, questo è un punto che resta, sì, ci fu una riunione, parteciparono anche il capo del servizio, anche Umberto Federico D'Amato, lo stesso ministro, però poi non mi risulta che siano state prese iniziative. Tra l'altro poi a novembre lui fu allontanato e quindi non ha più notizie. Ecco, ma torniamo un attimo a Parigi, perché se... No, avevo lasciato Parigi per completare il discorso. Allora Aldo, questa è la vera strategia che differenzia le Brigate Rosse da altri, le Brigate Rosse per Mogo, da altri attentati. Il vero atto di destabilizzazione non è l'uccisione di Mogo, lo potevano uccidere davanti alla chiesa dove andava quasi tutti i giorni. Sapevano anche qual era il giorno in cui il nipotino non lo accompagnava, quindi potevano scegliere quel giorno, ucciderlo lì, lo potevano uccidere in tanti altri posti, perché adesso c'è un maggiore controllo, ma allora in Piazza del Parlamento c'era un parcheggio, un garage, diciamo la verità, come disse Moravia giustamente. Piazza del Parlamento e Piazza Colonna erano due garage pieni di macchine. Ecco, non ci voleva nulla, passava senza scopo. Io personalmente l'ho trovato in un cinema alle mie spalle, io ero solo, lui era solo alle mie spalle. La sala semivuota, quindi poteva arrivare una persona a sparare. È stato voluto, perché questo ha fiaccato la risposta delle masse che all'inizio fecero quelle bellissime manifestazioni con le famose bandiere bianche e bandiere rosse. Ma in realtà nel corso del sequestro entrò in quello che non erano riusciti a fare le stragi, cioè le stragi secondo la teoria, secondo la quale alcuni sociologi stranieri ipotizzavano che continuare a fare le stragi e nel contempo non arrestare nessuno dei responsabili della precedente, con i politici che promettevano adesso chiariremo tutto, arresteremo tutti, ha portato non al timore, come il professor Severino dice, lo scopo degli stragisti era quello di fiaccare la reazione, perché chi vede appunto una situazione di questo genere, di instabilità totale, l'oscurità, chi fa le stragi e poi non va in galera, si chiude nel privato, non vota per il cambiamento, ma vota per conservare quello che c'è, soprattutto vota per conservare al governo i partiti dell'ordine, lui ha bisogno di ordine. Ebbene, sulle stragi non ci fu questa risposta da parte degli italiani, ci fu invece dopo Moro, e ci fu a cominciare dalla seconda parte di Moro, quando l'opinione pubblica era disorientatissima. E questo arriva allo scopo che è stato raggiunto, a parte il fatto che pare che volessero condurre un sequestro di vari mesi, quindi sarebbe stato ancora più lungo e tormentato. Perché le BR osservano ancora il silenzio? E beh, io continuo a ritenere che non possono parlare perché ne avrebbero dei problemi, perché loro sanno un'altra realtà. Oh, attenzione, io ritengo che solo i vertici, mi pare Colaprico ha detto così, solo i vertici, ma i vertici più alti erano, almeno in quel periodo, al corrente di che cosa si doveva fare e qual era lo scopo da raggiungere. Il sequestro Moro, per il 99% dei brigatisti, chi non lo sapeva neppure che era in corso, chi l'ha saputo dopo, era un'operazione da Tupamaros, da uomini dell'estrema sinistra, per far avanzare il proletariato. Io sono del tutto convinto che non più di 7-8 persone potevano conoscere il vero scopo del sequestro Moro. E poi io ritengo che le persone che sapevano tutto, nemmeno 7-8, io ci 8, ci conto i parigini, poi entriamo in Parigi. Ecco, quindi loro osservano il silenzio perché sanno che è pericoloso, che ci sono delle cose che possono essere rischiose anche per loro. Nel libro non l'ho messo, ma una delle persone che poi mi ha detto qualcosa, in un secondo tempo è andata una terza persona a parlare, a dire, uno dei brigatisti, allora quella cosa che hai detto a Peppino, loro sapevano che la persona sapeva che questa persona mi aveva parlato, vogliamo riaprire il discorso, è una giornalista. Io ho detto, ma te a Peppino, guarda, se la vita mi smentisco totalmente, ora solo una persona intimidita negli anni 90 può fare una figura di questo genere, posto che anche mia moglie era presente, perché si era stabilito con questo brigatista un rapporto, quindi eravamo a casa del brigatista e c'erano le bombe. Dall'altro ho notato che qualcosa che lui mi disse negli anni 90 lo diceva quando le bombe erano già andate a dormire, e quando io dissi, esposi più o meno quello che adesso dopo 20 anni ho esposto nel libro, la Monti mi disse, perfino, se fosse vero questo, e se tu, se un giorno fosse confermato, io il giorno stesso mi sparerei. Io mi sono voltato verso il marito e mi ha detto, io no. Quindi c'è un livello di accesso anche interno alle famiglie. Quindi sono d'accordissimo con Colaprico, non è... Lei crede che Moro abbia barattato? Certo, ma ha barattato una cosa, non Moro, Moretti, esattamente. Moretti ha barattato, questa è la teoria in primis di Pellegrino, ma io che con molte cose non sono in accordo con Pellegrino, questa penso di sì. Lui abbia barattato la terza parte del memoriale di Moro in cambio di una impunità che poi, certo, hanno, sono stati in carcere alcuni anni, molti anni, per carità, però noi non sappiamo alcune cose, perché se sapessimo forse sapremmo di più. Sica ha pazienza, voi dite pazienza non è un testimone attendibile, però sì, però pazienza aveva un registratore, e quando lo scriverà nell'interrogatorio e nel libro che ha scritto, dirà forse conservo ancora la registrazione. Quindi un messaggio a Sica, stai attento, non mi smentire. Sica racconta di conti vertiginosi di vertici delle Brigate Rosse, in particolare di un vertice importante di Senzani in Svizzera, che lui aveva tentato di penetrare e era stato impedito. Quindi si può anche contrabbandare un certo numero di anni. E poi le leggi italiane negli ultimi anni sono diventate sempre più generose, non solo per i brigatisti, certamente, ma diciamo la verità, ormai sono tutti fuori e molti da tempo. Mentre negli anni 70 Paolo Maurizio Ferrari, che non ha, e anche lo stesso Franceschini, che non hanno tolto un capello a nessuno, hanno fatto 20-25 anni, molti degli uomini di Gafani hanno fatto meno di 25 anni, molto meno, hanno cominciato a uscire la domenica, ma sapete, tutti i vantaggi, peraltro, che sono patrimonio, diciamo, di tutte le persone che vanno in carcere. Però ecco, c'è stata questa possibilità. Quindi come è possibile che abbia scontato? Beh, un ergastolo, anticamente si scontava l'ergastolo fino alla fine, ancora 20 anni fa mi pare che c'era persone che erano dentro da 42 anni. Adesso, adesso c'è solo Vinciguerra che non vuole uscire lui, ma le leggi permetterebbero di farlo uscire. Torniamo un attimo a Parigi. Ecco, però devo stringere. Fino a che ora ci... quando ci cacciano qui? Alle 2? Non vi affliggo fino alle 2, però un attimo possiamo. Allora, parto da un caso particolare e poi andiamo. In contatto con, anzitutto, i contatti con l'Iperion li tenevano sempre i capi, Moretti prima e Senzani dopo. Poi c'erano un paio di brigatisti che conoscevano il francese ed era indispensabile che partecipassero perché Moretti e Senzani, specie Moretti, non conosceva il francese. Ma non è che ogni brigadista poteva andare all'Iberion e entrare in contatto con altre persone. Ecco, quindi c'è un filtro che vale per queste persone, per anche il medio livello delle brigate rosse. C'è un francese che si chiama Paul Baudet, che quando viene arrestato, è una persona che fino a quel punto era considerata una persona non coinvolta, però la polizia italiana riesce ad arrivare ad avere delle prove, vanno in casa, perquisizione, scoperta di armi, scoperta di volantini, quindi si prevede un arresto. E lui dice al più alto in grado: chiami per favore De Grossure e gli dica che io sto per essere arrestato. De Grossure è una figura eccezionalmente interessante. Può essere fatto un paragone con Umberto Federico D'Amato. De Grossure era capo della segreteria o il massimo consigliere di Mitterrand, ma era un uomo che aveva un potere immenso, un uomo riservato, che poi cadrà in disgrazia nella seconda metà degli anni Ottanta, però conserverà una segretaria, un'automobile, alcune stanze all'Eliseo, fino a un giorno del 92, lui era lì di sera, si è sentito un colpo di pistola, è stato trovato riverso, era morto. Ma fino al giorno prima aveva incontrato McFarlane, i vertici del National Security Council statunitense, anche quando era in disgrazia. E quel giorno era stato invitato da un ministro africano a cena e lui alle 19.30, l'appuntamento era per le 20.30, aveva mandato un mazzo di fiori alla moglie di questo ministro africano con un biglietto di ringraziamento: confermo per le 20.30, la ringrazio. E alle 8.50 si è suicidato. È un po' strano come suicidio, e comunque ufficialmente lui si è suicidato. Ecco, quindi torniamo al punto ruolo francese, e qui possiamo ipotizzare che settori francesi, Mitterrand, un uomo che ha anche un passato a destra nel periodo prima della guerra, lui era un uomo di estrema destra, era vicino addirittura alla Cagoule, l'organizzazione che uccise i fratelli Rosselli, e ancora nel 1947 lui era, non era ancora socialista. E comunque c'è un legittimo desiderio del socialismo internazionale, quindi per carità è un'altra cosa, non la leghiamo alle Brigate Rosse, di depotenziare Democrazia Cristiana e Partito Comunista per creare un partito socialdemocratico, cosa che poi è quello che è avvenuto in questi anni. Ecco, in questa ottica non possiamo certamente pensare che l'Internazionale Socialista avesse intenzione di usare le Brigate Rosse, però i contatti anche del Partito Socialista Italiano, Mancini, alcuni altri personaggi, ci lasciano intendere che c'era una protezione, no? Lo stesso Fenzi negli interrogatori diceva: sì, ho incontrato Giacomo Mancini, certo che sa che noi non faremo la rivoluzione. E quindi c'è un disegno internazionale o comunque nazionale di un settore, che poi è quello che ha tentato di non far uccidere Moro, perché la destabilizzazione era in lungo sequestro, non l'uccisione di Moro. Non a caso si battono per la non uccisione di Moro con Luce Faranda, cioè le persone che erano in contatto con Pace e Piperno, i quali a loro volta erano in contatto con i socialisti. E poi c'è un capitolo che riguarda anche alcuni servizi che erano in contatto, occidentali, che erano in contatto con gli uomini dell'impero, e ci sono due sedi fuori della Francia e c'è un blocco di queste indagini rappresentate da un articolo del Corriere della Sera in prima pagina. Per carità, il giornalista è al di sopra di ogni sospetto, è Paolo Graldi, che tra l'altro scrive correttamente nel titolo: i servizi segreti ritengono che la scuola di lingue abbia un ruolo nell'attività del PR. Questo articolo esce nell'aprile del 79, poco dopo il 7 aprile, e costringe il funzionario di polizia che era lì a Parigi a rientrare in Italia, perché il servizio francese, che collaborava con lui in una forma non del tutto ufficiale, disse: siamo in imbarazzo, non possiamo più aiutarti. Quindi sulla Francia io mi auguro che sapremo molto di più, e quindi confermo che il generale Dalla Chiesa aveva buone informazioni o buone intuizioni fin da allora, e mi pare questa la conferma che il generale era una persona informata e in perfetta buona fede. E concludo questa parte ricordando che in quei giorni precedenti al sequestro Moro ci sono due uomini emarginati: il generale Dalla Chiesa e il prefetto Santillo, che dovevano essere i due candidati naturali per la guida del SISMI e del SISDE. Vengono sostituiti da due generali, tra l'altro non si nomina un vertice della polizia, si nomina un generale, tutti e due iscritti alla P2, ai vertici di questi due servizi, e Santillo viene nominato vice capo della polizia senza incarichi speciali, cioè un vice capo con una segretaria, una grande scrivania e i giornali da leggere. E guarda caso, qui entriamo nel dietrologico, lo mandano a fare la brutta figura del lago della Duchessa. E c'è un generale, un colonnello, un generale che era vicinissimo al generale Dalla Chiesa, che alla fine si offre e viene accettato, e il generale Niccolò Pozzo viene accettato nel pool, ma lui ha detto anche in commissione, la mattina io stavo lì ma non mi davano gli incarichi. A un certo punto ho cominciato nel pomeriggio a andare al cinema perché vedevo che non ero messo a corrente di nulla, non mi hanno utilizzato. Quindi come sono state condotte le indagini? Il generale della Chiesa per due volte è stato chiamato dopo che le frittate sono state fatte, dopo il sequestro di Sossi e dopo il sequestro di Moro. Beh, li chiamavano tutti e tre, poi anche Maletti, poco utilizzato e poi allontanato. Quindi sono tre o quattro persone in grado di combattere il terrorismo che vengono emarginate sia nel periodo del sequestro Moro sia in altri periodi. Se ci sono altre, giusto, lei ha detto. Io mi spero che sono arrivato tardi, magari che adesso faccio delle domande, sono già state poste, però in sostanza ne avevo due. Una sulla figura di Igor Markevich, perché io ho letto un libro di Pellegrino, Il misterioso intermediario, in cui si pongono delle domande su questa figura di cui si era discusso anche in commissione, appunto, del compositore russo e del fatto che Moro potesse essere stato tenuto anche a Palazzo Caetani, anche perché logisticamente via Caetani, Deve Scure, Piazza del Gesù e Palazzo Caetani, ma anche lì c'era un ufficiale di collegamento nella seconda guerra mondiale con i servizi americani, i russi che promise di salvare anche il governo di Casale di Firenze. No. La seconda domanda, ho sempre assistito alla discussione su cosa è avvenuto nel sequestro Moro dalle due parti, la parte ufficiale sono state le Brigate Rosse, una banda armata, e la parte dietrologica, cosa c'è in realtà dietro le Brigate Rosse? Non è possibile che otto terroristi invasati abbiano comunque messo in ginocchio un paese. Secondo me questa parte, la parte dietrologica, sebbene ci siano delle esagerazioni, fa parte di un disegno che è abbastanza facile cogliere, nel senso, noi abbiamo una banda armata all'inizio degli anni 70, quella di Lucio Franceschini e la Pegol, nata fra i numerosi gruppuscoli della sinistra, extraparlamentare sinistra. Abbiamo l'agguato in cui viene, cioè la trappola in cui viene uccisa la Pegol, in cui vengono arrestati Franceschini e Curcio e in cui Moretti non si presenta. Sì, sono due cose separate. La Cagol viene uccisa in un posto, Franceschini e Curcio vengono uccisi l'anno prima a Pinerolo. Sì, sì, appunto. Curcio e Franceschini vengono arrestati a Pinerolo nel settembre 74. La Cagol è uccisa in un'altra situazione. Nel giugno 75. Nel 75 in Piemonte. Abbiamo improvvisamente un capo Moretti che vuole inasprire la gestione delle Brigate Rosse in una veste più militarista. Abbiamo un viaggio di Moro che va in America e viene, questo lo dice la moglie di Moro, Eleonora, viene minacciato da Kissinger per la sua politica di vicinanza al centro-sinistra. Abbiamo un ministro degli interni, Cossiga, che si rivela totalmente incapace di gestire l'affare Moro e poi viene promosso, improvvisamente viene fatto anche capo della Presidente della Repubblica. Infine abbiamo il generale Dalla Chiesa, tra l'altro il generale Dalla Chiesa, l'unico, come ha detto lei, insieme anche a Santillo, non impasta con gli elementi di lui, istituto il comitato che era stato affrontato appunto per il sequestro Moro e farcito di lui. Come sappiamo, il generale Dalla Chiesa che viene mandato in Sicilia alla fine tutta la vicenda, e due mesi dopo la mafia, dopo che lui non ha ancora affrontato comunque misure riguardo alla lotta della mafia decisive, cioè deve ancora iniziare il pratico, tutta la parte del lavoro, viene improvvisamente ucciso dalla mafia in quanto scomodo. Leggendo gli eventi in una concatenazione non sembra abbastanza chiaro che ci sia proprio in alto una macchinazione dentro Moro. Allora, come giustamente ci incoraggiava sia Nando dalla Chiesa che Gianluri, non dobbiamo diventare totalmente dietrologi, perché poi magari alcuni aspetti o sono casuali o sono di altra origine, però certamente vi sono vari aspetti che lasciano pensare. Ma io magari ce ne parliamo un attimo dopo, rispondo in via cronologica. Moro minacciato da Kissinger, questo è vero, credo che uscirà un libro di Galloni fra poco nel quale conferma queste frasi che Moro riferì alla moglie, a lui e a pochissimi altri. Certo, uno dice, quattro anni di distanza, non possiamo tenere questa come l'inizio di una vista nata dalla frase di Kissinger, però è un dato di fatto che non tutti ricordano, voi non avete nessuna colpa perché non eravate nati o eravate molto piccoli. Il problema è questo: nel mese successivo alla visita di Kissinger ci fu una crisi politica in Italia e si dovette fare un governo che poi fu costituito a novembre. Moro resistette molto prima di riassumere la presidenza del Consiglio e disse alle persone a lui vicine: mi voglio allontanare dalla politica almeno per qualche anno. Quindi ci sono buoni motivi per pensare che il messaggio di Kissinger, che è stato molto pesante, penso che Galloni scriverà proprio le frasi che il concetto veda come la deve mettere, altrimenti lei può rischiare di persona. Vediamo se Galloni come la scrive, perché io l'ho ascoltato in una conferenza all'Aquila e lui l'ha intesa così. Poi ha pregato di non metterla nel libro e io l'ho tolta. Può darsi che adesso decida di metterla con questa crudezza. Comunque è certo che lui insiste molto su questo fatto, e c'è questo aspetto che chi è meno giovane ricorda, che Moro fu molto molto riluttante. Poi la situazione nella seconda metà del 74 anche sul piano internazionale era particolare. L'America stava abbandonando i fascismi di tutto il mondo, c'era un rinnovamento, l'Italia era in una crisi terribile, eravamo con una svalutazione a due cifre molto alta, e alla fine fece questo governo, però lui fu molto riluttante, quindi aveva preso molto sul serio le indicazioni, quello che Kissinger gli aveva detto. Allora parliamo un attimo di Mackevich. Mackevich esce senza grandi prove da una Pellegrino negli ultimi anni, due anni della commissione, incarica un magistrato che si chiama Silvio Bonfigli di seguire questo specifico filone. Bonfigli chiama come uomo dell'arte, dei Cavernier, come investigatore, un allora capitano, Massimo Giraudo, di ottimo valore. Si arriva a questa pista senza che vi siano grandi prove, è una pista abbastanza affascinante che completerebbe, renderebbe comprensibili alcuni aspetti, perché in quella strada, la Salma in via Caetani, perché quando prima di questa pista Mackevich si disse a metà strada da Piazza del Gesù e via delle Botteghe Oscure, in realtà non sta a metà strada, sta separata, perché via Caetani è più verso la Argentina, Roma, insomma non è proprio a metà, certo, però è l'area del ghetto. Ora, che Morgo possa essere stato negli ultimi giorni o solo l'ultima notte al ghetto, vi sono alcuni indizi, tanto è vero che il giudice priore in Cosimato in quel periodo, quindi dicembre 78, il periodo immediatamente successivo all'evento, sulla base di una confessione e rivelazione di un brigatista di terzo livello che era stato accusato di aver partecipato all'uccisione di un notaio a Prato, quindi una pista secondaria, il quale dice, io ho l'impressione, perché fu per essere per salvarlo, diciamo, dalla magistratura, lo portarono a Roma e a Roma fu tenuto all'interno del ghetto, almeno lui da questa spiegazione alla luce dei palazzi che lui vide. Ma ci sono altri due dati che portano a indicare il ghetto come molto importante, dati che noi non conoscevamo, abbiamo conosciuto in un secondo tempo. Il capo del raggruppamento centri di controspionaggio di Roma, che è, come dire, considerato il terzo uomo del Sismi, che si chiamava colonnello, poi generale Cogliandro, aveva mosso i centri di controspionaggio, quindi una struttura molto molto riservata. Dove sono i centri di controspionaggio non lo sappiamo, anche fisicamente, quindi più riservata anche del vertice del Sismi, di cui sappiamo l'ubicazione, proprio nel ghetto. E quando fu scoperto il cadavere, un collaboratore di Cogliandro sussultò, perché Cogliandro gli aveva detto vai a via Caetani e cerca di capire. Quindi se Cogliandro, uomo molto informato, aveva notizie di via Caetani, qualche cosa ci doveva essere. E questo è un secondo dato abbastanza importante. Quando la commissione arriva a Markevich, gli indizi sono labili, però c'è stata una recente intervista di Cossiga a Corriere della Sera nella quale per la prima volta nomina Markevich. Cioè Markevich non è stato mai avallato fino a quel giorno dall'entourage politico e le indagini, poi la commissione concluse i suoi lavori per fine mandato, per fine legislatura, il 2001 era quella la data finale, che ha già durata 12 anni la commissione, quindi 14 anni, quindi tantissimi. Quindi le investigazioni si fermarono, non ci sono grandi prove, però ci sono alcuni indizi, c'è la versione in francese pubblicata in Francia del dossier Mitrokhin porta la notizia di un possibile contatto di Markevich con il capocentro del KGB a Parigi. Qui non abbiamo tempo di aprire la possibile cooperazione o compartecipazione del KGB. Sta di fatto che non è da escludere, vedete nel libro io non lo escludo affatto, non che il KGB sia il responsabile come nella commissione Mitrokhin si è tentato di dimostrare, ma chi che potesse essere compartecipe di un disegno, è la tesi generale mia, che gli Stati Uniti non volevano la penetrazione di un comunista, di un ministro eventualmente comunista in un consiglio dei ministri, sia pure al turismo e spettacolo, una posizione defilata, perché comunque poteva entrare in contatto con segreti in atto, ma la Russia aveva dei problemi più gravi. C'era stata l'Ungheria con migliaia di morti, c'era stata la Cecoslovacchia, c'era un fermento già allora, stava nascendo in Polonia, c'era stato Berlino Est addirittura nel 1953. Cosa avrebbero detto e fatto i paesi, diciamo i democratici, le persone che insomma avevano qualche interesse politico nei paesi satelliti di fronte a una partecipazione del PC in un ambiente di democrazia tradizionale con le elezioni, quindi potevano essere parte del governo per 5 anni e poi uscire. Allora avevano detto, ma era solo questo che noi chiedevamo in Ungheria, in Cecoslovacchia, e ci hai ammazzato. Allora adesso il pericolo era la Polonia, cioè la Russia sapeva che la Polonia, che poi nell'80 con Solidarność ha fatto quell'itinerario che sappiamo, e quindi un interesse c'era, che ci sia stata una partecipazione eccetera, non lo so. Sta di fatto che però il capo dell'Iperion visse a Roma in una casa qua ritenuta insomma segreta, tutelata, con alcuni giovani brigatisti, uno dei quali riteneva allora di lavorare per il Cremlino. Devo confessare che io ho collaborato per anni a una rivista di un mensile, non sapendo niente ovviamente, il cui ufficio abbonamenti era guidato da questo ragazzo e da altri, e io l'ho saputo pochi anni fa. Qui c'è comunque il nuovo polizia. Ci sono altre domande? Ah, dunque, visto anche di loro, forse, non lo so, Nando, chi vuole? Niente. Un'altra cosa. Prima si diceva perché Moro e perché la scelta su Moro per il sequestro, e si diceva forse non perché Moro era forse perché Moro era il meno implicato di tutti, meno implicato in tutti quegli affari oscuri della politica che caratterizzavano la politica italiana di quegli anni. È una tesi troppo, se vogliamo, assurda, o si possono trovare dei fondamenti di verità che a mio parere si possono riscontrare nel libro, in quello che si diceva prima del memoriale di Moro, in cui lui finalmente si distacca dalla DC, appunto caldeggia più che altro il Partito Socialista, piuttosto che comunque si allontana anche dal Partito Comunista e dalla DC. Beh, intanto c'è il professor Galli che ha parlato di un possibile coinvolgimento anche in altri periodi della malavita nella vita politica italiana. Vuoi dire tu qualcosa? No, non so, l'ipotesi di Sciara. No, un'ipotesi che ho fatto in altre sedi era che Moro non voleva i comunisti al governo. Guadagniamo tempo. Però senza dubbio riteneva che la collaborazione col Partito Comunista avrebbe comportato qualche oggetto di scambio, il Partito Comunista avrebbe chiesto qualcosa, in realtà il Partito Comunista non chiese nulla, ma quello che poteva chiedere era qualcosa che Moro, proprio perché implicato in parte nell'economia della corruzione, c'è tutto il ruolo di Sereno Freato, è un pezzo di altra storia, ma certamente Moro, diversamente da altri leader democristiani, non aveva rapporti né con la Camorra, né con la mafia, né con la Ndrangheta. E allora, se al Partito Comunista, che le sue campagne elettorali di quel periodo erano il partito delle mani pulite, il partito che vuole moralizzare l'Italia, la questione morale di Berlinguer, allora se il Partito Comunista avesse chiesto in cambio della sua partecipazione alla maggioranza qualcosa, avrebbe potuto chiedere una moralizzazione della vita pubblica e una rottura di alcuni rapporti organici con la mafia, con la 'Ndrangheta e con la Camorra, che erano nell'interesse anche di quella parte della Democrazia Cristiana che non aveva questi legami. Questa è una possibile interpretazione di forze italiane che non erano interessate a un tipo di accordo tra Partito Comunista e Democrazia Cristiana che comportasse la moralizzazione della nostra vita pubblica. Credo che Sciascia lavorasse attorno a questa ipotesi. No, sì, poi ho detto la ragazza sul memoriale. Il memoriale non è una parte decisiva di sequestro, perché il memoriale rischiava di poter diventare pubblico. Nel memoriale ci sono segreti scabrosi, c'è un commento sull'attività di Andreotti che lui che Moro giudica assolutamente spregiudicato, di cui non ho mai invidiato la scelta politica. Se non ritiene sospetto anche il ritrovamento nel 90 del corpo di Diamante nel nudo, un pannello che si stacca. Dunque, che il memoriale sia fondamentale, questo lo ritengo, e ritengo soprattutto che esista la terza parte, di cui forse involontariamente Cossiga ci ha dato alcune prove, perché Cossiga... La storia irlandese. Esattamente, ha parlato di un villaggio irlandese costruito dalle forze speciali inglesi per addestrare le forze speciali alla lotta contro l'IRA. Ora abbiamo riletto questi due memoriali, le due parti che conosciamo riga per riga, di questa cosa non si parla assolutamente. Quindi questo indizio, questo sarebbe un doppio indizio, che così che esiste la terza parte, così che ce l'ha, da Letta quantomeno. Beh, la seconda, la scoperta della parte del 90, quantomeno io non ritengo ci siano prove provate o comunque per pensare a una scoperta in quel momento. Forse si può pensare che, ecco, chi è che ha detto qui, come mai i brigatisti non hanno detto, guardate che lì c'è una seconda parte, non lo hanno detto chiaramente, anche se c'è la Brioschi che accenna a questo fatto. Perché la scoperta avvenne perché il palazzo che era sotto sequestro fu finalmente desequestrato e messo all'asta come corpo di reato. Lo comprò un privato cittadino e quindi cominciò a fare le ristrutturazioni che erano necessarie dopo, quando entri in un appartamento nuovo. Tra l'altro Sergio Flamini, che conosceva con assoluta certezza l'esistenza di questa seconda parte, perché gliel'avevano detto i brigatisti, tentò di comprare lui l'appartamento, non ci riuscì. E lì certo giudice Pomarici, quando rispondendo a Flamini disse: è una sciocchezza, abbiamo scarnificato le pareti una per una, e ha fatto un'incauta di dichiarazione, quindi adesso porta questa cosa. Io credo che la seconda parte c'era, cioè che ci fosse, è sicuro. Presumo che quello fu un fatto casuale, però su questo onestamente non so. Dire una piccola cosa. La pista dell'Hyperion è certamente interessante, ma io credo che se la si persegue non porterebbe a Mitterrand, porterebbe in Vaticano. Ah, per Marco, allora dici... No, non è mai stato chiarito. Insomma, l'abbé Pierre è quello che ha permesso, d'accordo con i servizi, l'insediamento di Hyperion a Parigi. L'abbé Pierre è legato alla parte conservatrice e cattolica della Resistenza e in un determinato momento, per ragioni tuttora inspiegabili, insistette perché Papa Wojtyla ricevesse Corrado Simioni. Questo è un fatto. Corrado Simioni è il superclan, è uno degli organizzatori del collettivo politico metropolitano, quello che più di tutti spingeva in direzione della lotta armata, e che poi con la nipote dell'abbé Pierre, che ha sposato, mi pare, Berio, che ha sposato, Berio ha sposato. No, non Berio. No, l'altro. Innocente, sì. Salvoni. Ecco, Salvoni, ecco. Allora, Simioni organizza il trasferimento di questo nucleo super clandestino che chiamava super clan, lo trasferisce dall'Italia a Parigi. Moretti, ma anche Gallinari, rimangono in contatto con Superclan e con Simioni, e a un certo momento, mentre sono in corso tutte queste indagini che arrivano mai a capo di alcune cose essenziali, l'abbé Pierre fa ricevere Corrado Simioni dal Papa. Ecco, sarebbe interessante. E io è una... anche perché tutte le vicende che abbiamo indicato, Zorro, Loyola, in realtà Mitterrand in quel momento, nel 78, era il leader dell'opposizione, sì, ma non credo che avesse, cioè, che rischiasse le sue non elevatissime possibilità, visse poi nell'81, di impegnarsi in quella direzione. Insomma, una serie di vicende, Marc Cincus, Loyol, De Pedis, sul quale insisto, in Santa Apollinare, Emanuele Orlandi, qualcuno ci dice che probabilmente, se per stare a questo sottotitolo, le protezioni occulte, e questo spiegherebbe anche la forte resistenza ad andare fino in fondo, perché se portassero a Mancini o a Craxi o al Partito Socialista, le indagini sarebbero andate abbastanza avanti. Se dovessero portare ad ambienti vicino alla curia, gli ostacoli secondo me sarebbero molto maggiori. Spiega anche Cossiga. Niente, allora, io direi che con questo ultimo intervento di Giorgio Galli ci siamo dati l'impegno di tornare qui tra un po' di tempo, magari con il prossimo libro di Giuseppe De Lutis su Parigi, su tutti gli scenari che ho sofisticato. Comunque speriamo. Io mi occupo adesso di altro, no? Ho già abbastanza. Io ringrazio i nostri ospiti che sono stati qui con noi stamattina, ringrazio voi per essere intervenuti. Chiudo con un brevissimo spot pubblicitario, nel senso che martedì prossimo siamo di nuovo qui per presentare un altro libro di Aldo Giannulli, di cui trovate qualche informazione all'uscita, e quindi grazie ancora a tutti e buona giornata. Vi ringrazio anch'io, come ringrazio soprattutto i partecipanti.